il cittadino e Bloom sotto a questionare. I fratelli Shears e Wolf Tone, là su Arbor Hill, e Robert Emmett, e morire per la patria. Il tocco di Tommy Moore a proposito di Sarah Curran, e lei è lontana dal paese. E Bloom, naturalmente, con quel sigarone da capitalista, metteva su muffa col viso che colava grasso. Fenomeno. Quel balenottero che ha sposato è un bel fenomeno, con quel deretano come un campo di bocce. Quando stavano al City Arms, Pissel Bark mi disse che c'era una vecchia con uno spilungone un po' tocco di nipote, e Bloom cercava di prenderla per il verso del pelo, facendo il farfallone, e giocava a bazzica, e tutto per avere qualcosa nel testamento. E non mangiava carne il venerdì perché la vecchia era una bacchettona e si tirava dietro quello scemo a far due passi. E una volta gli fece fare il giro di tutte le bettole di Dublino. E porca miseria, non rifiatò finché non l'ebbe riportato a casa ubriaco fradicio. E diceva che era per fargli conoscere i pericoli dell'alcol. E mi venga un colpo se le tre donne a momenti lo facevano a pezzettini. È una storia buffa. La vecchia, la moglie di Bloom e Mrs. O'Dowd, la padrona dell'albergo. Cristo che ridere quando Pastor Burke gli faceva il verso e loro che gli si buttavano addosso. E Bloom che diceva: ma non capite? Ma d'altronde. È certo sta di fatto che quello scemo stava poi da Power, la raffineria. Quella di Cobb Street, e tornava a casa con le gambe che non lo reggevano, in carrozza, 5 volte alla settimana, dopo aver assaggiato a Garganella tutti i campioni della ditta fottuta. Fenomeno. Alla memoria dei morti, dice il cittadino, alzando il bicchiere da mezzo litro e fissando Bloom con occhi fiammeggianti. Sì, dice Joe. Lei non afferra quel che intendo dire, dice Bloom. Quello che voglio dire è che Sinn Féin, dice il cittadino, Sinn Féin Amahin, gli amici che amiamo sono al nostro fianco, i nemici che odiamo ci stanno di fronte. L'estremo saluto fu quanto mai commovente. Dai campanili vicini e lontani, i funebri rintocchi della campana morto risuonavano senza posa, mentre intorno alla cupa spianata rullava il sinistro monito di 100 tamburi coperti di panno, punteggiato dal sordo rimbombo delle salve d'artiglieria. Gli assordanti scoppi di tuono e gli abbaglianti sprazzi di folgore che illuminavano la macabra scena stavano a testimoniare che l'artiglieria celeste interveniva con la sua soprannaturale maestà allo spettacolo già di per sé orrendo. Una pioggia torrenziale si riversò dalle cateratte dei cieli adirati sulle teste scoperte della moltitudine assembrata che ammontava, secondo un computo minimo, a 500.000 persone. Un distaccamento della Polizia Metropolitana di Dublino, agli ordini diretti del commissario capo, manteneva l'ordine fra la folla sterminata che la banda di legni e ottoni di York Street intrattenne durante l'attesa, con un'ammirevole esecuzione sui suoi strumenti avvolti in drappi neri dell'impareggiabile melodia che la musa querula di Speranza ci ha reso cara fin dalla culla. Treni rapidi speciali per gite di piacere e carrozzoni imbottiti erano stati forniti per comodità dei nostri cugini della campagna, di cui si notavano grossi contingenti. Provocarono l'ilarità generale i cantori di strada LNHN e MLLGN, i beniamini di Dublino, che cantarono la sera prima che Larry tirasse le cuoia, nel loro consueto stile esilarante. I nostri due impagabili commedianti fecero affari d'oro vendendo il testo tra gli amatori del genere comico e nessuno che abbia in cuore un posticino per la vera allegria irlandese senza trivialità rimprovererà loro quei 4 soldi duramente guadagnati. I bambini dell'ospizio dei trovatelli, maschi e femmine, che stipavano le finestre prospicienti alla scena, si deliziarono di quel supplemento inaspettato ai divertimenti della giornata. E una parola di lode va spesa in favore delle sorelle dei poveri, per l'eccellente idea di offrire ai poveri bambini senza padre né madre una ricreazione veramente istruttiva. Gli invitati del viceré, tra cui si notavano molte dame del bel mondo, furono guidati dalle loro eccellenze in persona ai migliori posti sulla tribuna delle autorità, mentre la pittoresca delegazione straniera, nota sotto il nome di Amici dell'Isola di Smeraldo, fu fatta prender posto sulla tribuna immediatamente antistante. La delegazione presente al completo constava del commendatore Baci Baci Benino Benone, il semiparalizzato doyen della delegazione, che dovette essere sollevato fino al suo posto con l'aiuto di una potente grua a vapore. Monsieur Pierre Paul Petitet Patin, il Granciuco Vladimiro Brutocef, l'Arciciuco Leopold Rudolf von Schwanzenbad Odenthaler, la Contessa Mara Viraga Kisazzoni Putrapeschti, Hiram Y. Bombust, il Conte Athanatos Karamelopoulos, Ali Baba Bakshish Raat Lokum Effendi, il Signor Hidalgo Caballero Don Peccadillo I Palabras I Paternoster della Malora della Malaria, Oco Poco Harakiri, Hi Hung Chang, Olaf Kober Kedelsen, il Miner Trick Van Tramps, il Pampole Axe Padiriski, Goose Pond Proklestras Kracina Brutscisic, Boris Umpinkoffer, Hurhaus Director President, Hans Choekli Stirli, National Gymnasium, Museum, Sanatorium und Suspensorium Ordinari Privat Docente General Story Special Professor Dr. Kriegfried Überallgemein. Tutti i delegati, senza eccezione alcuna, si sono espressi in termini eterogenei, quanto più forti possibile, nei riguardi dell'inqualificabile barbarie cui erano stati chiamati ad assistere. Un alterco animato, a cui tutti hanno partecipato, è seguito tra i membri della ADIDS circa il fatto se l'8 o il 9 di marzo fosse l'esatta data di nascita del santo patrono d'Irlanda. Durante il corso della discussione, palle di cannone, scimitarre, boomerangs, tromboni, granate benefiche, mezzelune, ombrelli, fionde, guanti di ferro, sacchetti di sabbia, pani di ghisa furono utilizzati e furono liberamente scambiati colpi da ambo le parti. Il vigile McFadden, la mascotte della polizia, richiamato da Butterstown a mezzo di corriere speciale, ristabilì rapidamente l'ordine e con la prontezza della folgore propose il 17 del mese come soluzione equa ed onorevole per le due parti contendenti. Il suggerimento di quello spirito sveglio, alto 3 metri, si impose subito a tutti e fu accettato all'unanimità. Ci si congratulò quindi vivamente col vigile McFadden da parte di tutta la ADIDS, parecchi membri della quale sanguinavano a profusione. Essendo stato il commendatore Benino Benone disintricato di sotto la poltrona presidenziale, fu spiegato dal suo consulente legale, avvocato Pagamimi, che i diversi oggetti dissimulati nelle sue 32 tasche erano stati da lui prelevati dalle tasche dei colleghi più giovani durante la gazzarra, nella speranza di far loro riprendere i sensi. Gli oggetti, tra i quali si notavano svariate centinaia di orologi d'oro e d'argento da uomo e da donna, furono prontamente resi ai legittimi proprietari e la concordia tornò a regnare suprema. Tranquillamente, modestamente, Rumbold salì i gradini del patibolo in un impeccabile abito da mattina e portando all'occhiello il suo fiore favorito, il Gladiolus cruentus. Egli annunziò la sua presenza con quella discreta tosse ramboldiana che che tanti hanno cercato, con scarso successo, di imitare, breve, precisa e ciò non pertanto così caratteristica. L'arrivo del carnefice di fama mondiale fu salutato da una tempesta di acclamazioni da parte dell'immensa calca. Le signore del seguito del viceré agitavano i fazzoletti per l'eccitazione, mentre gli ancor più eccitabili delegati stranieri plaudivano vociferando in una babele di grida: Oh, Banzai! Elien! Zivio! Cin cin! Polla cronia! Hip hip! Vive! Allah! In mezzo alla quale il sonante Evviva! Del delegato della terra del canto, un doppio fa acuto, che ricordava le note deliziosamente penetranti con cui l'eunuco Catalani fece invaghire di sé le nostre trisavole, si distingueva agevolmente. Erano le 17 in punto. Il segnale della preghiera fu dato allora immediatamente attraverso il megafono e in un istante si scoprirono tutte le teste. Il sombrero patriarcale del commendatore, che è in possesso della sua famiglia dall'epoca della rivoluzione di Rienzi, essendogli stato tolto dal medico personale, dottor Pippi. Il dotto prelato che somministrava gli ultimi conforti della santa religione all'eroe martire in procinto di pagare con la testa, si inginocchiò con cristianissima rassegnazione in una pozza d'acqua piovana, con la tonaca sopra la testa canuta, e innalzò al trono della grazia fervide preci. Rigida, in piedi, accanto al ceppo, stava la cupa figura del giustiziere, con il volto celato da una pentola da 10 galloni perforata da 2 aperture circolari attraverso cui gli occhi fiammeggiavano furiosamente. Mentre egli attendeva il segno fatale, saggiava il filo della sua orribile arma, passandolo sul muscoloso avambraccio, ovvero decapitava in rapida successione un gregge di pecore fornitogli dagli ammiratori del suo crudele ma indispensabile ufficio. Su un elegante tavolo di mogano, accanto a lui, erano ordinatamente disposti il coltello per squartare, i vari ordigni sbudellatori bene affilati, appositamente forniti dalla rinomata ditta di coltelleria Mrs. John Round e figli Sheffield, un tegamino di terracotta pronto a ricevere il duodeno, il colon, l'intestino cieco, l'appendice, eccetera, quando fossero stati felicemente estratti, e 2 capaci brocche da latte destinate a ricevere il preziosissimo sangue della preziosissima vittima. L'economo generale del rifugio associato per cani e gatti era pure presente per rimettere i recipienti, una volta riempiti, a quella benefica istituzione. Un pasto davvero prelibato, consistente in fette di bacon e uova, cotoletta con cipolle cotta a puntino, squisiti panini appena sfornati e tè tonificante era stato cortesemente fornito dalle autorità a uso del personaggio centrale della tragedia, che era di ottimo umore durante i preparativi per la morte e manifestò vivissimo interesse alle operazioni dal principio alla fine, ma con una abnegazione rara in questi nostri tempi, si dimostrò nobilmente all'altezza della situazione e espresse l'ultimo desiderio, immediatamente accolto, che il pasto fosse diviso in parti aliquote tra i membri dell'Associazione degli Infermi e Indigenti a domicilio, a testimonianza della sua stima e considerazione. Il nec e il non plus ultra dell'emozione fu raggiunto quando la pudica sposa promessa si aprì a forza un varco tra i ranghi serrati degli astanti e si gettò sul petto muscoloso di colui che stava per essere consegnato all'eternità per amor suo. L'eroe strinse la fragile figura piangente in un abbraccio amoroso, mormorando teneramente: Sheila, amor mio. Incoraggiata da questo uso del suo nome di battesimo, ella baciò appassionatamente ogni qual parte acconcia della di lui persona il decoro dell'abito regolarmente permettesse al suo ardore di raggiungere. Gli giurò, mentre mescevano i salsi rivi delle loro lacrime, che avrebbe mantenuto sempre vivo il suo ricordo, che mai avrebbe dimenticato il suo giovane eroe che s'avviava alla morte col canto sulle labbra, quasi andasse a una gara di hockey a Clantor Park. Gli fece rimembrare i giorni felici dell'infanzia beata, quando insieme sulle rive di Anna Liffey si erano abbandonati ai piaceri innocenti della tenera età e dimentichi dell'atroce presente. Risero ambedue di cuore, unendosi poi all'allegria generale tutti gli spettatori, incluso il venerabile pastore. Quel pubblico ciclopico fu preso da un vero e proprio convulso. Ma tosto il dolore li sopraffece e le loro mani si intrecciarono per l'ultima volta. Un nuovo torrente di lacrime sgorgò dai loro condotti lacrimali. E il vasto concorso di popolo, toccato fin nel profondo dell'anima, scoppiò in singhiozzi da spezzare il cuore, e il venerabile prebendario non meno degli altri. Uomini grandi e forti, ufficiali di pace e gioviali giganti del corpo vigili irlandesi, facevano apertamente uso dei fazzoletti, e si può ben affermare che non c'era un solo occhio asciutto in quell'assembramento senza precedenti. Un incidente, quanto mai romantico, si verificò quando un bello e giovane laureato di Oxford, ben noto per la sua cavalleria verso il gentil sesso, si fece avanti e, esibendo il biglietto da visita, il libretto degli assegni e l'albero genealogico, sollecitò la mano dell'infelice giovinetta, chiedendole di stabilire il giorno e fu accettato sull'istante. A ogni signora presente fu fatto dono di un ricordino di buon gusto, una spilla a forma di teschio e ossa incrociate, atto tempestivo e generoso che provocò un nuovo scoppio di emozione. E quando il giovine galante oxoniense, che portava, sia detto per inciso, uno dei più rispettabili nomi nella storia d'Albione, mise al dito della sua fiancée, tutta rossa in volto, un costoso anello di fidanzamento con smeraldi disposti a mo' di quadrifoglio, l'eccitazione non conobbe più limiti. Invero, perfino il severo comandante dei gendarmi, il tenente colonnello Tomkin Maxwell French Mullan Tominson, che sovraintendeva alla triste cerimonia, lui che pure aveva proiettato un numero considerevole di soldati indiani dalla bocca del cannone senza batter ciglio, non poté frenare la sua emozione naturale. Col guanto di ferro si asciugò una furtiva lacrima e i cittadini privilegiati, cui era stato dato di essere nel suo immediato entourage, gli sentirono mormorare tra sé a voce bassa e tremante: "Boia miseria, è buona un frego quella troietta. Mi prenda un canchero se non mi vien quasi da piangere a vederla. Davvero, porco mondo, mi fa venire in mente la mia vecchia che m'aspetta laggiú a Limehouse.